Terzo anello ad alta voce. Il processo di Franz Kafka. Il vice direttore, che partecipava al colloquio con grande attenzione, guardò il foglio appena di sfuggita, senza scorrere nemmeno quello che conteneva. Perché ciò che era importante per il procuratore non lo era per lui. Prese il documento dalla mano di K e disse: «Grazie, so già tutto». E lo rimise tranquillo sul tavolo. K, indispettito, lo guardò di traverso. Ma il vice direttore non se ne accorse, o accorgendosene, se ne sentì solo incoraggiato. Fece grandi risate, una volta con una replica appropriata. Mise l'industriale in evidente imbarazzo, da cui però lo tolse subito facendo a se stesso un'obiezione, e infine lo invitò a passare nel suo ufficio, dove avrebbero potuto sbrigare la faccenda. «È una cosa molto importante», disse all'industriale. «Me ne rendo pienamente conto». Il procuratore, persino questa osservazione era rivolta in realtà solo all'industriale, «sarà certo contento se gliela portiamo via. La faccenda richiede calma e ponderatezza. Lui oggi sembra invece sovraccarico, e poi c'è gente in anticamera che lo aspetta da ore». K ebbe ancora presenza di spirito sufficiente per distogliersi dal vice direttore e rivolgere il suo sorriso cordiale, ma teso soltanto all'industriale. Non fece altro. Un pochino in avanti si appoggiò con entrambe le mani sulla scrivania, come un commesso dietro al banco, e rimase a guardare i due che, continuando a parlare, prendevano i fogli dal tavolo e scomparivano nella stanza della direzione. Sulla porta l'industriale si voltò ancora una volta e disse che ancora non si congedava, ma che naturalmente avrebbe informato il signor procuratore sull'esito del colloquio. Inoltre aveva da dargli ancora un'altra piccola informazione. Finalmente K fu solo. Non pensò neppure un momento a far entrare un altro cliente, e solo in confuso si rese conto quanto fosse piacevole che la gente fuori lo credesse ancora a trattare con l'industriale, e nell'impossibilità, per questa ragione, di far entrare chi che sia, neppure il commesso. Andò alla finestra, si sedette sul davanzale reggendosi con una mano alla maniglia e guardò sulla piazza. La neve continuava a cadere, ancora non aveva rischiarato. Così sedette a lungo, senza saper bene cosa lo preoccupasse. La decisione di prendere egli stesso in mano la sua difesa gli si presentò ora più grave di quanto avesse supposto all'inizio. Finché aveva addossato la difesa all'avvocato, era stato in fondo poco toccato dal processo. Lo aveva osservato da lontano e non aveva potuto esserne raggiunto direttamente. Aveva potuto controllare quando voleva l'andamento della sua causa, ma aveva potuto anche tirare indietro la testa quando aveva voluto. Ora invece, se avesse assunto in proprio la sua difesa, doveva, almeno per il momento, mettersi a disposizione completa del tribunale. Il risultato sarebbe stato certo più tardi la sua completa e definitiva liberazione, ma per ottenerla doveva comunque correre intanto un pericolo molto maggiore di prima. Avesse dubitato di questo, l'incontro odierno con il vice direttore e l'industriale avrebbe potuto provargli a sufficienza il contrario. Com'era rimasto seduto là, tutto confuso dalla sola decisione di difendersi da solo. Ma che sarebbe accaduto in seguito? Che giorni gli stavano davanti? Avrebbe trovato la strada che, superando tutto, portava a buon fine? Non significava una difesa scrupolosa, e tutto il resto era assurdo, non significava una difesa scrupolosa anche la necessità di segregarsi da tutto il resto? Ci sarebbe riuscito? E come poteva riuscire se rimaneva in banca? Non si trattava soltanto della memoria, per la quale forse sarebbe bastata una licenza, benché la richiesta di una licenza proprio in quel momento rappresentasse un grave rischio. Si trattava invece di tutto un processo, la cui lunghezza era imprevedibile. Che ostacolo era sorto all'improvviso sulla carriera di K? Thank you. E ora doveva lavorare per la banca? Girò lo sguardo sulla scrivania. Ora doveva far passare dei clienti e trattare con loro? Mentre il suo processo si svolgeva, mentre lassù, in solaio, i funzionari del tribunale studiavano gli atti del processo, lui doveva occuparsi degli affari della banca? Non sembrava una specie di supplizio che, riconosciuto dal tribunale, faceva parte del processo e lo accompagnava? E nel giudicare in banca il suo lavoro, avrebbe forse considerato la sua situazione particolare? Mai e poi mai. Il suo processo non era del tutto ignorato, anche se non era ancora proprio chiaro quali persone ne fossero al corrente e fino a che punto. Era sperabile che non ne fosse ancora arrivata la voce sino al vice direttore, altrimenti si sarebbe già visto bene come ne avrebbe approfittato ai danni di Kappa, senza spirito di colleganza né di umanità. E il direttore? Lui certo era ben disposto verso Kappa e probabilmente appena avesse saputo del processo avrebbe cercato, per quanto stava in lui, di procurare a Kappa qualche vantaggio. Ma non ci sarebbe certo riuscito perché ora, visto che il contrappeso rappresentato fino a quel momento da Kappa cominciava a diventare più debole, andava sempre più soggetto all'influsso del vice direttore, il quale approfittava inoltre del cattivo stato di salute del direttore per rafforzare il proprio potere. Cosa poteva dunque sperare Kappa? Senza una ragione particolare, solo per non essere costretto a tornare in quel momento alla scrivania, aprì la finestra. Si poteva aprire solo con difficoltà. Dovette girare la maniglia con le due mani. Nebbia mista a fumo penetrò nella stanza attraverso la finestra aperta in tutta la sua altezza e larghezza e la riempì di un leggero odore di bruciato. Volarono dentro anche alcuni fiocchi di neve. «Che brutto autunno!» disse alle spalle di Kappa l'industriale, entrato senza farsi sentire dalla stanza del vice direttore. Kappa annuì e guardò inquieto la borsa dell'industriale, dalla quale l'altro si apprestava a tirar fuori le sue carte per comunicare a Kappa il risultato delle trattative con il vice direttore. L'industriale seguì lo sguardo di Kappa, picchiò sulla borsa e disse, senza aprirla: «Lei vuol sapere com'è andata? Ormai ho il contratto in tasca, si può dire. Simpatico il suo vice direttore, ma un po' pericoloso». Rise, strinse la mano di Kappa, cercando di far ridere anche lui. Kappa invece si insospettì che l'industriale non gli mostrasse i documenti e non trovò da ridere all'osservazione dell'industriale. «Signor procuratore», disse l'industriale, «lei risente del tempo, vero? All'aria così depressa». «Sì», disse Kappa, portando la mano alle tempie. «Mal di testa, noie domestiche». «Eh già», disse l'industriale, che era uomo frettoloso, incapace di ascoltare tranquillo. «Ognuno ha la sua croce da portare». Ancora una piccola informazione, signor procuratore. Ho paura, dicendola proprio oggi, di importunarla, ma negli ultimi tempi sono venuto da lei due volte e l'ho sempre dimenticata. Se continuo però a rimandare, finisce col non avere più scopo. Ma sarebbe peccato, perché quanto da dirle non è forse inutile. Prima che K avesse il tempo di rispondergli, l'industriale gli andò vicino, gli batté leggermente una nocca sul petto e disse piano: «Lei è un processo, non è vero?» K si tirò indietro ed esclamò subito: «Gliel'ha detto il vice direttore?» «Oh, no!» disse l'industriale. «Da dove l'avrebbe saputo il vice direttore?» «E lei?» chiese K, già molto più padrone di sé. «Ogni tanto vengo a sapere qualche cosa dal tribunale», disse l'industriale. «Questo riguarda proprio l'informazione che volevo darle». «Ma con quanta gente in rapporto il tribunale?» disse K con la testa chinata e guidò l'industriale verso la scrivania. Si sedettero di nuovo come prima e l'industriale disse: «Purtroppo quello che posso comunicarle non è molto, ma in cosa del genere è bene non trascurare il minimo elemento. Ma inoltre mi sta a cuore aiutarla in qualche modo, per quanto il mio aiuto sia modesto. Sono venuto a sapere del suo processo da un certo Titorelli. È un pittore. Titorelli è solo il nome d'arte. Il nome vero nemmeno lo conosco. Sono anni che ogni tanto mi capita in ufficio portandomi piccoli quadri per i quali gli do sempre, è quasi un mendicante, una specie di elemosina. I quadri, d'altra parte, sono graziosi, paesaggi di brughiera e simili. Queste vendite, cui entrambi ci eravamo abituati, andavano avanti senza intoppi, ma una volta le sue visite diventarono troppo frequenti. Io glielo rimproverai, cominciamo a parlare. Mi interessava sapere come si mantenesse solo con la pittura e con stupore appresi che la sua fonte di guadagno principale sono i ritratti. Lavorava per il tribunale», disse. «Per quale tribunale?» chiesi. «E allora mi raccontò del tribunale. Lei potrà immaginare meglio di qualunque altro quanto quei racconti mi stupissero. Da allora, ad ogni sua visita, mi riferisce qualche novità del tribunale. E così, a poco, sono arrivato a farmi una certa idea della faccenda. Titorelli, certo, è un chiacchierone e spesso lo devo allontanare non solo perché ho la certezza che mente, ma soprattutto perché un uomo d'affari come me, quasi schiacciato dalle preoccupazioni dei propri affari, non può curarsi molto di cose altrui. Ma questo solo tra parentesi. Può darsi, ho pensato poco fa, che Titorelli possa esserle un po' d'aiuto, conosce molti giudici, e se anche personalmente non ha grande influenza, può darle consigli sul modo di avvicinare varie persone influenti. Ma adesso le piacerebbe andare da Titorelli? Con una mia raccomandazione farà certo tutto quello che potrà. Penso davvero che dovrebbe andarci. Non occorre che sia oggi, naturalmente, ma una volta, quando capita. D'altra parte, lei, voglio ancora dire, non è in nessun modo obbligato a recarsi da Titorelli solo perché gliel'ho consigliato io. No, se crede di poter fare a meno di Titorelli, meglio lasciarlo da parte. Forse lei ha già un piano preciso e Titorelli potrebbe guastarlo. Allora no, naturalmente, non vada per niente. Ci vuole certo del coraggio a farsi dare consigli da un tipo simile. Ma veda lei. Ecco la lettera di raccomandazione e l'indirizzo». Deluso, Cap prese la lettera e la mise in tasca. Anche nel migliore dei casi il vantaggio procuratogli dalla raccomandazione era senza paragone minore del danno dovuto al fatto che l'industriale sapeva del suo processo e che il pittore ne diffondeva la notizia. Riuscì a stento a trovare qualche parola di ringraziamento per l'industriale, che già si dirigeva verso la porta. «Andrò», disse sulla porta nell'accomiatarsi dall'industriale. «Oppure, con tutto il da fare che ho adesso, gli scriverò di passare una volta in ufficio». «Lo sapevo», disse l'industriale, «che avrebbe trovato la strada migliore. Pensavo però che avrebbe preferito non invitare in banca gente come quel Titorelli per parlare qui del processo. Neppure conviene sempre lasciare lettere in mano a gente simile. Ma lei ha certo pensato a tutto e saprà il da fare». Thank you. Annuì e accompagnò l'industriale attraverso tutta l'anticamera. Nonostante la calma esterna, era però spaventato di sé. Aveva detto che avrebbe scritto a Titorelli solo per far vedere all'industriale che apprezzava la sua raccomandazione e che pensava subito alla possibilità di incontrare Titorelli. Ma se avesse giudicato utile l'assistenza di Titorelli, non avrebbe esitato a scrivergli davvero. Si era però accorto dei pericoli che ne potevano derivare solo dopo l'osservazione dell'industriale. Poteva fidarsi così poco ormai del suo cervello? Se era capace di invitare in banca un dubbio individuo con una lettera esplicita per chiedergli consigli sul processo, quando solo una porta lo separava dal vice direttore, non era possibile, e anzi molto probabile, che non vedesse anche altri pericoli o che vi si cacciasse dentro? Non sempre aveva qualcuno vicino per metterlo in guardia. E proprio adesso che doveva scendere in campo con tutte le sue energie, gli dovevano venire dubbi simili, mai conosciuti prima di allora, sul suo controllo. Le difficoltà che provava nel disbrigo del lavoro di ufficio sarebbero cominciate adesso anche nel processo? Ora non capiva più com'era stato possibile che avesse voluto scrivere a Titorelli e invitarlo in banca. Stava ancora scuotendo il capo su questo, quando il commesso gli si accostò ricordandogli i tre signori seduti sulla panca in anticamera. Aspettavano da un pezzo di essere ricevuti da Cappa. Ora che il commesso parlava con Cappa, si erano alzati e ciascuno voleva approfittare di un'occasione favorevole per arrivare a Cappa prima degli altri. Se la banca li trattava con tanto poco riguardo da far loro perdere tempo in anticamera, a loro volta non intendevano più essere riguardosi. «Signor procuratore!» cominciò a dire uno. Ma Cappa si era fatto portare il cappotto dal commesso e mentre con l'aiuto del commesso lo indossava, disse a tutti e tre. «Signori, mi scusino!» Purtroppo in questo momento non ho tempo di riceverli. Chiedo scusa, ma ho da sbrigare una commissione urgente e devo andarmene subito. Loro stessi hanno visto quanto a lungo sono stato trattenuto adesso. Vogliono essere così gentili da ritornare domani o un altro giorno? Oppure parlare delle loro pratiche per telefono? Oppure dirmi ora rapidamente di che si tratta e io darò poi una risposta dettagliata per iscritto? La cosa migliore sarebbe però che ritornassero. Queste proposte di Cappa stupirono talmente quei signori i quali avevano dunque aspettato del tutto invano, che si guardarono gli uni con gli altri senza parole. Proprio a questo punto uscì dalla stanza vicina il vice direttore. Guardò sorridendo Cappa che in cappotto discorreva con quei signori e chiese: «Va via ora, signor procuratore?» «Sì», disse Cappa raddrizzandosi. «Ho da sbrigare una commissione». Ma il vice direttore si era già rivolto ai signori. «E i signori?» chiese. «Credo che aspettino da un pezzo!» «Ci siamo già messi d'accordo», disse Cappa. Ma ora i signori non si tennero più. circondarono K e dichiararono che non avrebbero aspettato delle ore se i loro affari non fossero stati importanti, se non avessero dovuto parlarne subito diffusamente e a quattro occhi. Il vice direttore rimase un po' a sentire. Considerò anche K che teneva il cappello in mano e lo spolverava qua e là, e poi disse: signori, un rimedio c'è, è semplicissimo. Se si contentano di me, assumo volentieri l'incarico di trattare al posto del signor procuratore. I loro affari debbono naturalmente essere discussi subito. Siamo gente d'affari come loro e sappiamo valutare come si conviene il tempo della gente d'affari. Vogliono entrare per di qua? E aprì l'ufficio che portava nell'anticamera del suo ufficio. Con quanta abilità il vice direttore sapeva fare suo tutto ciò che K adesso era costretto ad abbandonare. Ma K non abbandonava più di quanto fosse proprio necessario. Mentre correva da un pittore sconosciuto con speranze vaghe e, come doveva ammettere, molto esigue, il suo prestigio subiva lì un danno irreparabile. Thank you.